9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì, buon ultimo giorno di settimana di settembre, 24 di settembre. Oggi parleremo di un punto cruciale per ognuno che tenti di occuparsi di economia, i numeri, perché i numeri in un paese che non riesce più a capire se tra Presidente del Consiglio e Presidente della Camera chi non dice la verità sulle case del patrimonio del suo ex partito e chi magari fabbrica documenti falsi e li fa apparire sulla stampa internazionale per accusare il Presidente della Camera del suo stesso paese, questo è il livello in cui nel centrodestra come nel centrosinistra deputati cambiano partito ogni giorno, non esattamente tra posizioni contigue, bensì tra chi vuol fare le scarpe all'altro, come capita a me un giro di un paio ogni giorno nel gruppo tra Futura Libertà e PDL. Nel PD idem, i numeri ballano, si legge che alcuni parlamentari che non hanno votato contro e non sono nemmeno con gli astenuti di Veltronieri in direzione, ma sarebbero pronti ad andare verso il terzo polo. Insomma, i numeri nel nostro paese sono di solito quelli che si chiamano i numeri a colori, cioè quelli fatti apposta per confondere le idee. Poi però in realtà per occuparsi di economia i numeri dovrebbero essere un linguaggio condiviso ai quali dovrebbe corrispondere un fenomeno, e intorno a quel fenomeno e a che cosa significa dovrebbe esservi una convergenza fattuale. Poi su come affrontarlo il fenomeno ovviamente ci si divide, ma quantomeno sul fenomeno bisognerebbe essere d'accordo. Allora, di che cosa ci occupiamo oggi? Di quale sia davvero il fenomeno nella realtà italiana rappresentato dalle cifre della disoccupazione. Oggi trovate sui quotidiani, perdonate che ho un attacco di raffreddore in questo momento, scusatemi, trovate sui quotidiani di oggi la rappresentazione grafica, molti articoli sulla release fatta sul rilascio dei dati del secondo trimestre, fatto dall'Istat ieri, che riguardano la disoccupazione nel nostro paese. Nel secondo trimestre di quest'anno la disoccupazione nazionale in media è stata dell'8,5 e quella giovanile del 27,9% dei voti. A luglio il dato è leggermente migliorato, siamo a una media nazionale di disoccupati dell'8,4%, quindi uno 0,1 in meno, e quella giovanile è scesa dal 27,9% di media del trimestre, secondo trimestre, quindi aprile, maggio, giugno di quest'anno, è scesa al 26,8% nel mese di luglio. Vi ricordo che nel mese di aprile la percentuale ha toccato il massimo storico da molti anni a questa parte, toccando il 28,9% di disoccupazione giovanile. Ora, questa disoccupazione record di giovani, quasi più vicini a essere 1 su 3 che 1 su 4 senza lavoro, si chiede per esempio Enrico Marro sul Corriere della Sera di oggi in un editorialino, un commentino, un corsivo intitolato Le mezze verità dei numeri. Scrive Enrico Marro: come diceva Paolo Silos Labini, se la disoccupazione è a due cifre ma non ci sono sobbosse, qualcosa non quadra. Significa che dietro al tasso ufficiale di disoccupazione si cela tanto lavoro nero. Se nel sud la disoccupazione, quella media generale, è al 13,4%, con punte del 39,3% per i giovani e del 40,3% per le donne, un piano per il mezzogiorno, troppe volte promesso dal governo, deve partire da qui. Lotta al nero e all'evasione scolastica, ma anche nuova formazione, perché il mercato richiede spesso lavori che non corrispondono a ciò che i giovani studiano. Guerra alla criminalità. Se tutto questo non si fa, però, è anche perché accanto alla disoccupazione ufficiale ci sono tante vie per portare a casa un qualche reddito, e infatti l'emergenza non scoppia. Ecco, sono partito apposta da questo editoriale che condivido integralmente, parola per parola, di Enrico Marro, ottimo collega dell'economia del Corriere della Sera, per tentare di capire con alcuni dei nostri ospiti oggi come loro essi interpretano in realtà il fenomeno della disoccupazione in generale, aumentata di 2 punti rispetto al 6,3, 6,4 a cui eravamo arrivati nel pre-crisi. E tenete conto che il tasso di disoccupazione italiano era superiore al 10% prima della legge Treu, per convergenza unanime dei diversi giuslavoristi e economisti di diverse scuole, dalla legge Treu del 2001 in avanti, e cioè intervenendo con un nuovo set di tipologie di contratti a cui molti pensano che le imprese abbiano fatto troppo ricorso, ma che in realtà hanno affiancato al lavoro a tempo indeterminato, lavori a progetto, lavori a contratto, eccetera, eccetera. Tutto questo ha liberato il mercato del lavoro, la domanda di lavoro, consentendogli di assorbire una offerta di lavoro che prima non trovava impiego, e quindi noi grazie a quello siamo scesi di quasi 5 punti di tasso di disoccupazione, ed eravamo a un buon tasso medio del 6 qualche cosa per cento nel pre-crisi, che adesso sale all'8,4-8,5, comunque sotto la media europea, comunque ben sotto quella americana. Però il tasso di disoccupazione che si concentra da noi nell'universo giovanile e in quello femminile è molto più alto. Aggiungo che per interpretare davvero il tasso poi di disoccupazione di un paese, per interpretarlo alla luce della capacità di creare un problema più o meno serio sul totale del reddito disponibile pro capite di un paese, bisogna tenere conto di un altro dato a cui nel nostro paese facciamo molto poca attenzione, che è il tasso di occupazione, cioè è il percentuale di popolazione sul totale di quelli in età lavorativa 15-64 anni che davvero partecipa al mercato del lavoro. Quello, a mio modesto giudizio, fine della mia introduzione, è il vero problema nel nostro paese. Molto più di queste cifre del tasso di disoccupazione sulle quali sono d'accordo con Enrico Marro, perché qui di rivolte per strada, tranne che in alcune aree del sud, virgola, sempre collegati a lavori socialmente utili o a redditi pubblici da anni e anni garantiti da un'organizzazione corrotta del potere pubblico nel nostro paese, mio modesto avviso, quello si vede, ma altrimenti la rivolta di strada non c'è. Non voglio dire che questi disoccupati non ci siano, dico solo che la cosa più grave, a mia modestissima opinione, e ho concluso, è il fatto che noi abbiamo da sempre, e abbiamo continuato ad averlo, un tasso di occupazione che è sensibilissimamente più basso di quello della media di tutti i paesi avanzati. Pensate che noi nel pre-crisi, prima che poi scendesse di quasi 2 punti per effetto della disoccupazione e dell'effetto di scoraggiamento che la crisi esercita sugli occupati, il tasso di occupazione nel nostro paese aveva raggiunto e superato di poco il 59%, cioè solo poco più di 1 su 2 del totale di coloro che stanno in un'età tra i 15 e i 64 anni lavora nel nostro paese. Tenete conto che nella Germania il tasso di occupazione è superiore al 70,9% nel pre-crisi, e nel 2010 ha ripreso a salire e ha superato il 71%, cioè tra il tasso di occupazione dell'Italia e quello tedesco ci sono la bellezza di 13 punti di distanza, cioè ci sono 13 tedeschi in più su 100 in età da lavoro che lavorano davvero, mentre da noi ce ne sono 13 di meno. Tutto questo contribuisce ad abbassare la produttività del paese, ovviamente il reddito pro capite, eccetera eccetera. La mia opinione è che invece di assumere, lo dico brutalmente e ho concluso, disoccupati con lavori socialmente utili o precari di massa nella scuola, oppure i 5.000 nella sanità di cui Vendola giustamente dal suo punto di vista si dice fiero di sforare il patto di stabilità perché i precari vanno assunti, io credo che ci dovremmo occupare di rendere il mercato più capace di assorbire naturalmente coloro che non si offrono sul mercato del lavoro, cioè quei 13% che restano a casa. E se restano a casa vuol dire che c'è qualcuno che intermedia reddito e glielo trasferisce, può essere la famiglia, il suo patrimonio, può essere nero o informale, può essere quello che volete. Certo, la rivolta, a mio modesto avviso, non c'è. Però, fine della mia introduzione, e può essere che io sbagli. Sentiamo invece che cosa pensano i nostri ospiti. Allora inizierei con Francesco Forte, che insegna scienza, docente emerito di scienza delle finanze, editorialista del Giornale e del Foglio, per sapere l'emergenza disoccupazione dal suo punto di vista, dove si concentra, perché e qual è la strategia per uno che fa politica, cioè perché ha un incarico pro tempore in un governo, magari anche dura anni, ma la politica cosa può fare di efficace per tentare di affrontare tanto il problema dei disoccupati che quello dei pochi occupati? La risposta è piuttosto difficile, apparentemente, perché la disoccupazione e anche la mancata occupazione sono fenomeni frastagliati, come dice Oscar, su tre aspetti: i giovani, le donne e il mezzogiorno. Però in generale io direi che i rimedi sono due. Il primo rimedio è continuare a deregolamentare il mercato del lavoro, e adesso ciò che conta sono soprattutto i contratti aziendali di lavoro, in particolare anche con retribuzioni diverse per le varie aree geografiche, in modo da tenere conto del diverso costo della vita, del diverso costo di opportunità. L'altro aspetto è quello di deregolamentare le politiche, diciamo, contributive e fiscali, perché ci sono degli ambiti attuali di finta disoccupazione o di mancata occupazione, in particolare nella terza età, che derivano dal fatto che esistono obblighi contributivi per coloro che già hanno una propria pensione o una pensione di reversibilità e per conseguenza o addirittura divieti di svolgere attività di lavoro salvo perdere una parte di questa pensione. E quindi messo assieme questo col fatto che abbiamo le pensioni precoci, si è generato un'enorme convenienza di una parte notevole della popolazione a non emergere nell'economia emersa e quindi a non far risultare il proprio lavoro, ma anche una parte notevole della popolazione non ha convenienza a lavorare a causa appunto di questi due fenomeni, rigidità contrattuali e appunto oneri fiscali contributivi. Non ha convenienza a lavorare o non ha convenienza ad assumere. Ecco, questo è, diciamo, il quadro complessivo. Ora tenete presente, la interrompo un secondo per ricordare un altro elemento che lei ha accennato adesso. Ovviamente sul tasso di occupazione, cioè sulla convenienza spontanea, per così dire, di chi è in età da lavoro a offrirsi sul mercato del lavoro, ha un'incidenza diretta al di là della domanda, perché poi ci occuperemo anche del fatto che la domanda di lavoro in alcune aree del nostro paese segnala anche in costanza di crisi di non riuscire a trovare soddisfazione, cioè c'è gente che non trova assolutamente i dipendenti che cerca, non solo per i tipi di qualifiche, ma poi non li trova e quindi i posti restano scoperti. Ma al di là di questo c'è una convenienza, una sconvenienza, cioè, che viene esercitata inevitabilmente dalle aliquote fiscali e contributive. Qualunque studio comparato sui diversi paesi OCSE su come è evoluto nel tempo la pressione sommata sul lavoro di tributi e contributi è in grado di dimostrare come nei diversi paesi OCSE ci sia una proporzionalità diretta, e cioè alla crescita più o meno accentuata di pressione fiscale e contributiva sul lavoro ha fatto riscontro in maniera direttamente proporzionale una diminuzione della convenienza registrata a offrire lavoro sul mercato e una diminuzione del totale di ore lavorate settimanale del totale degli occupati sul totale della popolazione in età da lavoro. Sono dati che abbiamo già citato la settimana scorsa, ricordavamo che nel 1960 la somma di pressione fiscale contributiva nel nostro paese era di 26 punti percentuali, esattamente come in Gran Bretagna, per passare poi dopo nell'arco di un cinquantennio a 49,9%, e questo aumento molto forte da 26 a 49,9, un aumento di più di 23 punti, quasi 24, faceva riscontro una diminuzione del 30% delle ore lavorate settimanali medie di coloro che lavorano sul totale della popolazione, cioè appunto sugli occupati. Questo spiega perché il tasso di occupazione tende a diminuire, cioè si scoraggia il lavoro, quanto più elevata è la pressione fiscale e contributiva. La spiegazione di quello che il professor Forte vi stava appena dicendo, quando si dice che in questa maniera non è conveniente emergere. E il problema è che però noi le aliquote le teniamo alte dicendo che non si può fare così e non li si può abbassare fino a che non acchiappiamo quelli che evadono. In questa maniera nella realtà continuiamo solo a scoraggiare la gente dall'entrarci davvero nel mercato del lavoro. La mia tesi sarebbe un'altra, ma la conoscete, quella di tagliare. Sentiamo intanto alcuni ascoltatori cosa ci dicono. Cominciamo con Pietro che ci chiama da Udine. Buongiorno. Qual è la sua esperienza e opinione? Nella sua area lei è tra chi si offre e non trova domanda o chi domanda lavoro e non trova offerta? Io devo assumere delle persone e non riesco a trovarle, per cui la cosa è veramente inspiegabile. Ma che tipo di figure lei cerca? Ma io ho un ristorante e io cerco dei camerieri, non riesco a trovare dei camerieri, ma vi rendete conto? E ma perché gli italiani non vogliono, sono solo stranieri, neanche nella crisi non ha riscontrato nessuna differenza? Gli stranieri sono ben accetti, perché tant'è che ho una ragazza in locale che è una romena, che è fantastica, perché veramente ha una flessibilità anche mentale, che veramente in queste situazioni io, che sono l'imprenditore, devo fare di tutto. E mi trovo però delle persone, una volta che assumo, che si rifiutano di fare queste cose perché non rientrano nelle loro mansioni. Ma è questo l'assurdo. Quindi, nella sua esperienza, perdonami, per farci capire, perché sennò io già vedo qua che mi arriva un sms che sembra una trasmissione organizzata a favore del governo, come per negare i problemi. No, guardate, stiamo passando le telefonate che ci arrivano. È un fatto che in larga parte del nord esiste un fenomeno eccensito, capite? Cioè ci sono le agenzie del lavoro interinale che fanno il matching tra domanda e offerta, che confermano quello che ci sta dicendo Pietro da Udine. Allora l'interessante è capire perché. Pietro, nella sua esperienza, quando le dicono non fa parte delle mie mansioni è perché c'è una questione di dignità, cioè viene considerato offensivo per i giovani col quali lei è entrato in contatto svolgere quel tipo di mansioni, oppure che problema è secondo lei? Sinceramente non riesco a capire, però se un cameriere di sala a un certo punto, voglio dire, non c'è un flusso di persone, dice senti metti in ordine la sala, fa parte proprio delle sue mansioni. Però sinceramente la difficoltà è che chiunque in azienda come lavoratore ha il diritto di rifiutarsi di fare un incarico o di svolgere una funzione, perché questo rientra secondo l'imprenditore tra le sue mansioni, tu non gli puoi fare niente, gli puoi fare magari dei richiami scritti, però il tempo passa, alla fine voglio dire l'azienda deve essere mandata avanti, un imprenditore certo. Non può permettersi di litigare con i propri dipendenti perché questi qui si rifiutano di fare certe cose, ma quello che volevo proporre è che secondo me queste condizioni, il lavoro è uno degli investimenti più rischiosi per l'imprenditore. Ma è noto che in Italia come facciamo le trasmissioni sulla facilità di divorzi e separazioni che finiscono sanguinosamente, ma insomma è abbastanza facile, talvolta per il lavoro non è così. Adesso io sto esagerando perché vedo che iniziano ad arrivare anche qualche minaccia di schiaffi, quindi faccio retromarcia, però è un fatto che sul mercato del lavoro italiano, se voi paragonate l'Italia alla Spagna, che pure ha una disoccupazione molto forte, la settimana scorsa hanno rivisto per l'ennesima volta le loro regole del mercato del lavoro. In Spagna sia i contratti di lavoro a tempo determinato che indeterminato, quelli a tempo indeterminato sono in proporzione doppia rispetto a quella italiana sul totale dei rapporti di lavoro in Spagna, hanno rivisto le regole per la licenziabilità in Spagna, sia nel caso dei contratti a tempo determinato che in quelli a tempo indeterminato sono certi, ex ante, non affidati al giudizio variabile di un giudice sull'articolo 18 come nel nostro caso, e sono determinati il numero di mesi a seconda della durata del contratto che era in corso prima della richiesta di licenziamento fatta dall'imprenditore per ristrutturazione, e calcolando X mesi per numero di anni, tanto per i contratti a tempi determinati quanto indeterminati, in Spagna hanno abbassato questo limite. Ecco, questo per capire come funziona in altri paesi. Non dico che siano esempi, però intanto la realtà con cui noi siamo in concorrenza è quella. Ora pubblicità. Eccoci tornati in studio, i dati della disoccupazione: 8,5% media secondo trimestre, 8,4% scesa di poco da 0,1% a luglio, una disoccupazione giovanile elevatissima, in teoria da esplosione tensione sociale, visto che era a maggio al 28,5% e al 26,8% a luglio, ma nella media del secondo trimestre i giovani tra il 15 e il 24 anni sono disoccupati in Italia al 27,9%. Poi se andiamo a sud tra le donne, la percentuale sale al 38-39%, oltre il 40% per le donne. Eppure la rivoluzione non è un invito alla rivoluzione e non è una provocazione la mia, è un interrogativo su come queste cifre vadano lette rispetto all'andamento economico vero del paese e soprattutto rispetto a modelli di intermediazione del reddito, tanto per la parte pubblica in alcune regioni del paese, il sud per capirci, quanto poi l'incentivo che lo Stato con le sue aliquote dà a rimanere nel nero. Io propongo una lettura molto diversa da quella abituale. Ci sono i cattivi e lo Stato che invece li deve acchiappare uno per uno. Lo Stato ci provi, ma il problema è che è molto più facile acchiapparli incentivandoli, abbassando le aliquote piuttosto che il contrario. Questa è la mia opinione. Poi dall'altra parte c'è un paese, quello colpito più duramente dalla crisi del manifatturiero da export, con i cali ordinativi a doppia cifra, 30-40%, che per quanto ridimensionati in questo 2010 restano in alcuni settori comunque il 20-25%, in cui i dati e le testimonianze comprovano che, come c'era prima una mancanza di lavoratori richiesti dalle imprese, continua a esserci anche nella crisi. Qualcosa non torna, lo ammetterete. Leggo una sms di un ascoltatore. Caro Giannino, una testimonianza: ho 22 anni, laurea triennale in scienze politiche alla Statale di Milano, ho fatto il cameriere per 2 anni con regolare contratto e oggi sono specializzato e collaboratore libero con un'agenzia di assicurazione. Il lavoro giovanile, secondo me, nella mia esperienza, esiste. Basta volerlo e avere un po' di umiltà. Manager non si diventa, certo, per divina assunzione, e difficoltà normative a parte, siamo ancora un gran paese con buone possibilità per i giovani. È un messaggio regolarmente col suo numero, la sua firma, eccetera. Quindi, allora, ci si è aggiunto tra i nostri ospiti Marco Accorrero, segretario generale di Unione Artigiani, la provincia di Milano. Buongiorno. A proposito di questo singolare paradosso che si vive in alcune parti del nord, testimoniato dalla telefonata prima del nostro ascoltatore che aveva un ristorante, per quello che riguarda gli artigiani, che pure sono stati nelle fasce dell'impresa artigianale più delicate e sensibili, insomma non stiamo parlando certo qua di grandi capitali o patrimoni, sono stati molto duramente colpiti dalla crisi e dalla stagnazione della domanda interna, quindi questo è un fatto. Però nella realtà sua spesso lei ha fatto dichiarazioni, ha proposto studi nei quali un po' si comprovava questa faccenda che poi non si trovano gli apprendisti, non si trovano neanche per gli artigiani, non come si diceva prima per collaborare in sala in un ristorante, ma insomma l'artigiano è una qualifica professionale, un mestiere che dovrebbe essere molto più in su, diciamo, nella singolare graduatoria oramai della considerazione che i giovani hanno del lavoro. Eppure qual è la sua esperienza, Cornel? Purtroppo non è così. Noi abbiamo il problema del ricambio generazionale nel nostro settore. I dati pre-crisi ci indicavano che un'impresa su due, quasi il 43% nella nostra provincia, dichiarava di cercare manodopera e di non trovarla. Certo, erano dati pre-crisi, però noi notiamo anche che ormai un avviamento su quattro, anche ci sono stati avviamenti al lavoro durante l'anno Horribilis 2009, un avviamento su quattro al lavoro è di personale straniero, di stranieri. Parlo di avviamenti regolari, quindi con contratto di lavoro, contributi, eccetera. Certamente c'è il fenomeno di una, la chiamerei, disoccupazione culturale. Sia i giovani che le famiglie, più che cercare un posto di lavoro, cercano il posto di lavoro che vogliono loro, nel senso è anche un'aspirazione comprensibile. Però è una disoccupazione culturale e d'immagine, perché il lavoro presso un artigiano viene considerato sia dalle famiglie che dai giovani un lavoro di serie B e pertanto non rientra fra le prime scelte. Testimonianza ne è che le iscrizioni alle scuole professionali sono in calo da parte degli italiani e stanno diventando sempre di più appannaggio degli stranieri, dei figli degli stranieri, mentre sono in crescita le iscrizioni ai licei. Scelte legittime, ma che certamente non si confanno al nostro mercato del lavoro, dove l'occupazione, anche quella poca che si crea ancora, la creano le piccole imprese che rappresentano comunque il 50-60% degli occupati in Italia. Io sottoscrivo integralmente quello che ha detto Marco Cornero, e la testimonianza è che litigo con quasi tutti i genitori, miei amici di figli che sono avviati all'inizio dei licei, eccetera, eccetera, di fronte al fatto che io dico: guardate, in Germania la disoccupazione è più bassa e l'occupazione comunque molto più alta, e conta più questa seconda cosa della prima, vi posso garantire, cioè il tasso di partecipazione al mercato del lavoro, quello da sostenibilità di lungo periodo, mentre la disoccupazione può essere elevata o meno elevata perché segue i cicli congiunturali, come è evidente, dipende anche naturalmente dalla struttura produttiva, le specializzazioni, come le diverse specializzazioni produttive rispondono più o meno rapidamente al variare della domanda interna e internazionale. Però di fatto io dico a questi genitori: ma perché li mandate tutti al liceo quando è evidente che i vostri figli non è che abbiano tutta sta voglia di studiare latino e greco, ma devono fare quello che vogliono? È la risposta. No, la risposta è: non devono fare quello che vogliono, perdonate, no, bisogna saperli indirizzare verso un modello. Guarda caso, come dice Cornero, la Germania, che ha sempre tenuto in elevatissima considerazione il canale professionale nella formazione secondaria, è quella che ha la maggior copertura rispetto all'evoluzione nel tempo dei profili che servono nelle figure dell'artigianato, nelle specializzazioni nel manifatturiero, e guarda caso lì c'è un tasso di partecipazione molto più elevato e molti meno, per così dire, disoccupati intellettualmente pretenziosi. Perché poi questo è il punto. Sentiamo su questo una telefonata che ci viene da Roma, ci chiama Deborah. Deborah, qual è la sua esperienza e opinione? Perché io poi non vorrei sembrare di offendere chi poi il lavoro non lo trova. Io lo so che è un dramma per molti, però sto tentando di capire come si leggono questi dati. Deborah, la sua esperienza qual è? Buongiorno, salve, io ve la racconto in breve. Io sono una giornalista, ho lavorato per ben 8 anni in un noto teatro romano che fa anche televisione, del quale chiaramente non facciamo il nome, a causa dei tagli del FUS e della scadenza col contratto con Mediaset. No, la possiamo anche farlo il nome, però non è che si rischia niente, no? No. Va bene, Teatro Parioli. Teatro Parioli, okay. Quindi Maurizio Costanzo Show. Esattamente, del quale io ho tantissimo rispetto, siamo in buoni rapporti, però purtroppo i soldi non ci sono, quindi i tagli sono stati fatti alla grande. Sì. Ok. Allora ti trovi nella condizione nella quale, se non hai una raccomandazione, tu il tuo lavoro di giornalista non lo puoi fare, e non puoi chiaramente trovare lavoro, diciamo, nel settore, no? Che dei vari teatri. Quindi inizi a darti da fare, cerchi i lavori più diversi, dalla commessa alla cameriera, eccetera. Se tu mandi il tuo curriculum vero e autentico, già il fatto che leggono che sei una giornalista non va bene, sei troppo qualificata e quindi il lavoro non è adatto a te. E quindi, Deborah, cosa hai iniziato a fare? A non dire che eri giornalista? Esattamente, ho dovuto falsificare il curriculum. Allora lì subentra il discorso dell'età. Ti penalizza l'età, 36 anni, poi tu ti fai un giro in tutti i ristoranti di Roma e nei pub, eccetera, e ci trovi o i ragazzini di 20 anni oppure gli extracomunitari. Troviamo rumeni, troviamo egiziani. Quindi la verità è questa. Ecco, Deborah ci dice: attenzione a non volere, perché io mi ero trovato nella condizione di offrirmi anche per qualifica, anzi non dicevo neanche che ero giornalista, ma comunque non mi vogliono, ah, perché donna, poi perché donna, ma comunque non sono abbastanza giovane, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie Deborah, perché questo credo che sia effettivamente anche vero, questo anche nella mia esperienza c'è questo problema. Tant'è vero che noi abbiamo un problema specifico sulle donne, questo è verissimo che c'è. Sentiamo un altro ascoltatore invece, Gianni, dalla provincia di Brindisi o da Brindisi Città? Brindisi Città, non capisco cosa mi hanno detto, ma perché gli occhi non mi servono bene stamattina. Gianni, ci chiami da Brindisi? Sì, Brindisi Città. Sì, allora, io lavoro a Brindisi, ma sono di Lecce. La sua esperienza? Salento, sì. Io sono comunque un lavoratore che va fra poco in pensione, sono stato uno dei fortunati. Io faccio l'esperienza delle mie figlie, che, come ha detto giustamente la giornalista prima, hanno dei problemi proprio come la giornalista, perché qua al sud vengono sottopagati. E qui che trovi a lavorare rumeni, gente di colore, perché se mia figlia lavorando un mese gli danno 250 euro 12 ore al giorno, beh, non credo che sia corretto. Anche alla persona che non trovava il cameriere per il suo ristorante, quanto li paga? Perché se tu vai al nord a lavorare e poi ti danno 600-700 euro, tu devi pagare casa, devi fare la benzina. Quindi ecco il problema che hanno i ragazzi, è un problema strutturale, non è un problema di generazionali. I ragazzi vogliono lavorare, però vengono sottopagati, almeno al sud vengono sottopagati. Tu fai un mese di lavoro sabato domenica ti danno 300 euro. Chiarissimo, e quindi per questo dice non partecipano al mercato del lavoro, non perché abbiano una questione di dignità o chissà che si credano, ma perché qui offrono retribuzioni troppo basse, dice Gianni da Brindisi. Bortolussi, il nostro Giuseppe Bortolussi, che tradizionalmente chiamiamo, perché altrimenti andiamo in sindrome d'astinenza, segretario generale dell'Unione Artigiani, no, il segretario della CGIL di Mestre, che ha questa stupenda cosa che ha messo in piedi negli anni, poiché siamo un paese che campa poco di numeri, loro hanno elaborato dei numeri che danno con proprie ricerche e tutti gli vanno dietro, e questa si chiama capacità di fare egemonia. È un gramsciano, come sappiamo, trapiantato nel mercato e nel mondo artigiano. Bortolussi, questi dati così diversi della disoccupazione italiana giovanile, in realtà perché non c'è l'emergenza sociale e perché poi ci chiamano dal nord dicendo ma dove stanno questi disoccupati che non ne trovo uno? Ma guardi, mi piacerebbe il mio intervento orientarlo su due aspetti. Primo, Germania disoccupazione giovanile nel 2009 10,4, Austria 10%. Ragazzi, contro il nostro 27,9 c'è qualcosa di diverso. Cosa c'è di diverso? Quello che in parte accennava lei. Se io vado in Alto Adige, scopro che in Alto Adige la frequenza alle scuole professionali è la più alta d'Italia. Secondo, buon secondo viene il Veneto, non male neanche la Lombardia. Cosa significa? Un modello che guarda più alla realtà, forse al mercato, ma comunque alla realtà, che quei sogni gentiliani. Ha presente quel famoso filosofo Gentile che ha dato un'impronta alla nostra scuola, mi spiego, che va benissimo, ma non va bene per il mercato, andava bene per quegli anni. Allora tutti al liceo, tutti greco e latino, anch'io ho fatto il liceo e ne sono felice, ma ci sono tanti giovani che vorrebbero imparare e fare un bel mestiere. Allora il mismatch che c'è tra la richiesta di personale che c'è nelle piccole aziende, non solo artigiane, e l'offerta, da cosa è dovuta? Vede, c'è un'indagine Unioncamere Excelsior che la dice lunga. Ci vogliono infermieri, ci vogliono certe figure professionali e invece c'è disoccupazione, perché gli altri, giustamente, quando uno è architetto, quando uno ha studiato giurisprudenza, qualche volta si accontenta di fare anche altre volte lavori, qualche volta invece aspetta. Quindi c'è questo aspetto di questa profonda differenza tra quello che chiede il mercato, e se lei viene, beh, lei è di Torino, quindi, e comunque gira tutta Italia e vede quanti cartelli ci sono, cercasi questo, cercasi quello, cercasi l'altro. Contemporaneamente c'è un'alta disoccupazione. Poi ci sarà anche il caso di chi sottopaga, ma chi rispetta i contratti, i nostri salari sono bassi per carità rispetto agli altri paesi, però insomma sono stipendi decorosi, e però non si trova chi fa il commesso, non si trova chi fa l'apprendista, non si trova chi fa il saldatore, e quindi c'è tutto un mercato del lavoro orientato male per un certo. Poi dopo bisognerebbe anche dire una cosa: se noi siamo arrivati a questo punto bisognerebbe anche fare un calcolo, e io il mio centro studi gliel'ho detto di provare, la differenza tra chi ha investito come la Germania e la Francia e i risultati che ha avuto sul fronte della disoccupazione. Perché tutti siamo liberisti, però io ho visto che quando è stato il momento anche Bush poi ha messo mano al portafoglio. Illo tempore, no? Ha messo mano al portafoglio perché ha detto bene, la Germania ha fatto degli investimenti, noi abbiamo fatto molto poco. È il prezzo che stiamo pagando, quindi questa disoccupazione al mercato, al mancato intervento? Probabilmente sì, perché c'è una profonda differenza tra noi, per esempio la Germania, anche se bisogna dire un altro dato, che la disoccupazione media italiana 8,5 a giugno, 8,7 si prevede a fine anno, è inferiore di un punto e mezzo circa rispetto alla media europea, superiore della Germania di poco. La interrompo solo perché abbiamo l'informazione sulla circolazione stradale che è già in ritardo di un minuto e mezzo. Via, poi ci tornate in studio. La cifra della disoccupazione, come interpretarla in questo mismatch, in questa paradossale coesistenza su piani diversi di chi non trova dipendente di cui in cerca e chi dice attenzione, a me mi pagano troppo poco, così non è possibile, solo sfruttato, non conviene. Un ascoltatore mi chiede: ma tu avessi un figlio, dopo la scuola media lo manderesti a fare l'idraulico? Ma tu stai scherzando, ma ce lo mandi? lo pregherei in ginocchio, anzi mi prenderei, lo pregherei anche di insegnarmi il mestiere. L'idraulico, ma come puoi pensare, l'ascoltatore naturalmente sappiamo chi è firmato, ma come si può pensare che dire fare l'idraulico sia una cosa, che cos'è, mancanza di stima sociale? L'idraulico, poi l'idraulico, anzi a me sembra che oramai anche nell'immaginario sociale sia pure, perché la gente è convinta che tanto non pagano mai le tasse neanche loro, perché sono i nemici del consorzio civile, perché solo i lavoratori dipendenti pagano le tasse, non sono in nero, cosa che non è vera per niente, mi dispiace. Comunque, detto questo, tutta la vita, se avessi un figlio che vuole fare l'idraulico, lo prego in ginocchio di non cambiare mai idea. Assolutamente sì. Sentiamo ancora qualche ascoltatore. Mario, che ci chiama dalla provincia di Bologna. Buongiorno. Io un dato che non vedo mai in tutte queste statistiche, né in TV, né per radio, né tantomeno da lei, è un altro dato. Qui si parla solo di disoccupazione giovanile, femminile, e basta. Perché sono le componenti faccia più elevate, non perché... Ma caro Giannino, i giovani normalmente vivono al 90% col papà e con la mamma in casa. Verissimo. C'è una fascia disoccupata adesso di 40-50 anni che hanno famiglia, hanno figli e non sanno come fare. Vero. Questi sono la canna del gas. Anche perché sono quelli in cui si concentra la maggiore difficoltà di riassorbimento. Di questi non se ne parla mai. Io ho mandato via 100 curriculum, chieda al suo ospite degli artigiani o ai suoi amici imprenditori se prendono in considerazione il curriculum di gente che ha oltre 40 anni, glielo chieda prima di dire che non trovano mano all'opera. Perché non glielo chiede? Nessuno risponde al curriculum di gente che ha più di 40 anni. Questo allora, è un altro problema allora, serio. Sentiamoci. Certamente. Queste cose. Questo non c'è dubbio, perché siccome non abbiamo ancora toccato un punto, qua bisogna che noi usciamo dall'idea di continuare solo a protrarre in deroga cassa integrazione ordinaria e straordinaria per difendere il posto di lavoro come era e dov'era. Dobbiamo mettere mano ad ammortizzatori concentrati nella difesa dei lavoratori, consentendo alle imprese di ristrutturare, del loro lavoro dove viene offerto. Quindi formazione ricorrente è il problema posto al nostro ascoltatore, secondo me è uno dei punti critici su cui bisogna concentrare il più delle tutele, perché effettivamente c'è un problema serio quando l'età inizia a diventare quella che ci ha segnalato lui. Quindi lì un sistema di ammortizzatori diverso, che orienti verso la flexicurity e che tuteli i lavoratori, ma non con l'idea di farli rimanere lì, perché l'invariabilità del perimetro, un'idea di 50 anni fa, capite, quando c'erano le nicchie e i margini di mercato che restavano perché c'erano i vincoli sulla libertà dei capitali, sulle importazioni eccetera eccetera, quel modo lì di fare ammortizzatori sociali secondo me è morto, è superato, solo che è un tabù dirlo, continuiamo a protrarne la copertura, l'abbiamo fatto bene, e la durata e però rinviamo una riforma, perché abbiamo paura che nella riforma litighiamo. Anche il governo ha preferito fare questo, secondo me è un errore. Tommaso da Parma, qual è la sua esperienza? Sì, salve, dottor Giannino, finalmente lei ha toccato un dramma vero, secondo me, della nostra società. Ci sono varie sfaccettature, cioè sottopagati, lavoro nero. Io sottolineerei l'aspetto, io vado spesso in Spagna perché mi piace. In Spagna vedo giovani che fanno dei lavori che qui ormai non li fa più nessuno. Quindi la Spagna supererà la crisi prima di noi, perché la vera forza propulsiva sono i giovani. Cosa che qui in Italia ormai, mal guidati da una certa politica, fanno la fila per andare al Grande Fratello, magari accompagnati dai genitori. Ecco, qui questo è il vero dramma. Gli fanno credere che basta essere velina per andare in Parlamento. Poi ci chiediamo perché in Italia non ci sono più idraulici. Lo so. No, secondo me i idraulici ce ne sono ancora più di quanto. Per altre qualifiche artigiane, quando c'è un apprendistato insomma un po' impegnativo, comunque io sono meno dell'idea. Guardi, io le veline hanno tutto stimpatto, le veline. Sì, probabilmente sì. Sarà che io la televisione, francamente, è stata rotta per tempo. E non... Ma non perché sono superficiale nei confronti della televisione, capisco. Però davvero i vostri figli sono convinti che vogliono fare tutti i parlamentari o la noi? Che sgambetta con la faccia plastificata in discoteca. Molti vogliono andare in discoteca, ma perché preferiscono non impegnarsi? Forse questa è la vostra maggiore responsabilità. Non ve la prendete con la televisione, perché poi i figli sono vostri. Scusate se ve lo faccio notare. Allora, Bortolussi, questa riforma degli ammortizzatori, se lei fosse ministro per un mese ma con i pieni poteri, come la farebbe? Ma è semplice, gli ammortizzatori non devono essere legati all'azienda in stato di difficoltà o decotta e grazie a quello che si dà all'azienda si salva il lavoro. Gli ammortizzatori sociali devono essere dati in misura maggiore, perché l'Italia ha un peccato originale, spende troppo poco per gli ammortizzatori sociali rispetto agli altri paesi, se andiamo a vedere una spesa sociale inferiore agli altri ma anche sbilanciata, e quindi l'unica cosa da fare è questi soldi bisogna darli al lavoratore, è come uno zainetto che deve avere, mi spiego, presso di sé e che gli consente di passare a un lavoro o un altro e nei periodi di disoccupazione seguire corsi, perché questo è l'obbligo, per riqualificarsi. Perché quando noi vediamo la nostra disoccupazione, per esempio, e dico che quella giovanile, mi riallaccio a quello che dicevo prima, nel nord-est è il 18,3, no, il 27,9 secondo la media nazionale, vede, è perché molti fanno lavori umili, molti fanno lavori artigianali. Bortolussi è un mio ministro ideale, non avrà mai, se mi mettessero a me alle finanze e lui al lavoro, ne vedremo delle belle. Ma al di là di questo, grazie a Bortolussi, grazie a Marco Acornero, grazie al professor Francesco Forte, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Abbiamo trattato il tema in maniera un po' diversa, come si sente sui giornali italiani, che descrivono chi la tragedia e chi un non problema. Il problema esiste, ma si potrebbe governarlo, ed è meno grave perché c'è un forte fenomeno di disincentivo per come è organizzato questo Stato, molto corruttore, ancora peggio che corrotto. Lo Stato corruttore è peggio che corrotto. Grazie in regia a Carmelo Lauricella, grazie a Antonella Migliaccio che mi ha assistito mio malgrado per la messa in onda, e come sempre Alessandro Marco Tulli che ha avuto insieme a me l'idea della trasmissione di oggi. Appuntamento a questo punto a lunedì, linea giornale radio, ho sforato un minuto e mezzo, oh mio, oh mio, oh mio.